Salva Danaio di Deborah Rosciani. Una buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il vostro Salvadanaio. Il tema che affrontiamo oggi è quello della liberalizzazione dei punti vendita dei farmaci senza obbligo di prescrizione, dei cosiddetti OTC, cioè da banco, da automedicazione. Il tema della liberalizzazione nell'ambito farmaceutico è un tema che è stato oggetto delle misure di Bersani di 2 mesi fa, che suscitarono, lo ricorderete benissimo, non poco clamore. Di sicuro l'apertura di parafarmacie o di corner salute negli ipermercati ha suscitato nei mesi una certa curiosità fra i consumatori e ha fatto anche prendere posizioni contrastanti fra tutti gli attori del sistema. Ma alla fine quello che non si capisce è se la crescita dei luoghi di vendita ha aumentato per il consumatore finale le opportunità di risparmio. Certo, vale la pena subito ribadire un aspetto molto importante: dobbiamo affrontare questa questione con una dose di buonsenso, di responsabilità. Il farmaco non è un vestito, non lo scegliamo in base ai gusti ma in base alle necessità. Ma a parte questa considerazione ovvia, la liberalizzazione dei luoghi di vendita che benefici ha portato al mercato? Come possono praticare sconti farmacie e parafarmacie? Ieri, tra l'altro, la questione degli extra sconti ai farmacisti sui farmaci generici è approdata anche a un tavolo aperto presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Partirà presto una campagna per la trasparenza dei farmaci. Ne parleremo questa mattina con tutti i nostri interlocutori, naturalmente invitandovi come sempre ad interagire con noi chiamandoci all'800 24 00 24, oppure scrivendoci al 349 238 6666. Sentiremo Laura Filippucci, economista, curatrice delle inchieste nel settore salute per altro consumo; Anna Rosa Racca, presidente nazionale di Federpharma, la federazione nazionale che rappresenta le oltre 16.000 farmacie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; e Pietro Marino, presidente dell'AMPI, l'associazione nazionale delle parafarmacie italiane. Un'occhiata alla borsa, come facciamo tutte le mattine. Come vi dicevo nel giornale radio stamattina, il quadro è piuttosto positivo. Dopo una partenza più stentata per l'Europa, c'è stata un'improvvisa accelerazione che porta Parigi e Francoforte a crescere dell'1,3%, Londra più 0,49%. Abbiamo una buona tendenza anche per Piazza Affari: S&P MIB più 0,85%, MIPTEL più 0,79%, in una giornata che vede acquisti molto decisi sulla ex autostrade, che è in rialzo di 4 punti, Prismian più 3%, Banco Popolare più 2,72%, Italcementi più 2,47%. Abbiamo 2 punti di progresso su STM, su Luxottica, su Fiat, su Buzzi Unicem, su Finmeccanica, quindi sembra essere una giornata di recupero un po' più consistente degli ultimi giorni, quando ogni tentativo è andato poi sul finale a fallire. In calo di 2,5 punti in Pregilo, Mediaset perde l'1,71%, Mediobanca perde 1 punto, Seat pagine gialle, tanto per cambiare, anche oggi lascia sul campo 0,5 punto percentuale. 0,5 punto di calo per Parmalat. Abbiamo 1 euro sul dollaro a 1,47,16, una giornata che ovviamente ci porterà ad osservare ancora una volta molto attentamente quanto accadrà nel pomeriggio a Wall Street, dove, come sapete, è in discussione al congresso americano questo maxi piano di, chiamiamolo così, salvataggio, quantomeno di sostegno al sistema bancario americano, al vaglio appunto del congresso. Ieri sera il presidente Bush ha auspicato una rapida approvazione, altrimenti, ha detto chiaramente, la recessione è alle porte. Lasciamo comunque la borsa, andiamo al tema di stamattina. Parliamo oggi di tutt'altro argomento che però sono sicura appassionerà molto i nostri ascoltatori. Oggi parliamo di farmaci. Più trasparenza sui prezzi dei farmaci. Esigenza che il mondo dei consumatori avverte da tempo e alla quale ieri si è data l'ennesima risposta con la sottoscrizione di un nuovo protocollo d'intesa affinché ogni punto vendita illustri in modo chiaro il prezzo al pubblico di 20 confezioni da banco. Solo l'ultima delle numerose iniziative messe in campo negli ultimi anni. Il primo passo nella direzione di una liberalizzazione del mercato era stato compiuto nel 2005, con un decreto tagliaprezzi dell'allora ministro della Salute Francesco Storace. E l'anno successivo arrivava, con le lenzuolate di Bersani, il via libera alla vendita dei farmaci SOP, senza obbligo di prescrizione, e OTC, da banco o di automedicazione, nelle parafarmacie e nei corner della salute all'interno degli ipermercati in presenza di un farmacista. Inoltre, l'abolizione definitiva del tetto massimo di sconto, che è stato reso libero. Ma cosa è accaduto da allora? Secondo uno studio di Altro Consumo, che ha messo a confronto i prezzi di 60 farmaci senza obbligo di ricetta in 102 punti vendita tra farmacie, parafarmacie e corner salute, qualche riduzione c'è stata. Per quanto riguarda i farmaci griffati, cioè quelli di case farmaceutiche note, i corner salute negli ipermercati si confermano i più competitivi. Ma le maggiori differenze di prezzo sono state riscontrate proprio nelle farmacie, che arrivano anche al 50% sul singolo medicinale. Per risparmiare, quindi, si consiglia di chiedere sempre il prezzo prima dell'acquisto e, all'occorrenza, cambiare punto vendita. Da uno all'altro, infatti, le tariffe applicate possono variare anche sensibilmente. Poi, se possibile, scegliere il farmaco equivalente, meglio conosciuto come farmaco generico, con lo stesso principio attivo, ma più economico. Non farsi invece allettare dalle offerte disponibili su internet, dove il rischio di contraffazione è molto alto. Insomma, tra l'altro mi sembrava davvero allucinante dover parlare questa mattina anche di contraffazione nell'ambito del farmaco, invece a quanto pare è un tema ben presente anche da parte di tutti gli attori, insomma, di questo ambito. Avremo occasione di parlarne questa mattina. Prima di tutto però, intanto 800 24 0024, il numero verde che, se vorrete, vi dà l'opportunità di raccontarci qual è il vostro approccio, non dico nel confronto del farmaco, a volte purtroppo per noi è un approccio obbligato, ma soprattutto cercate di individuare se esiste rispetto alla vostra farmacia di fiducia un altro canale di vendita che magari vi dà l'opportunità di acquistare lo stesso prodotto che vi serve ad un prezzo un po' più contenuto. Insomma, e poi che atteggiamento avete, se notate, se avete mai utilizzato anche il corner del supermercato oppure la parafarmacia. Insomma, tutti i temi che stamattina affrontiamo con i nostri ospiti. Vi leggo però l'attacco dell'inchiesta condotta da Altro Consumo, pubblicata di recente con le consuete prove dell'Associazione dei Consumatori sul campo. Sentite un po' che cosa racconta. Fa caldo, ci si sente un po' fiacchi e affaticati, spinti dalla pubblicità, ci illudiamo che la soluzione possa essere un supplemento vitaminico. Mettiamo che il pensiero corra verso il Supradin. Andiamo in farmacia a procurarci una di quelle scatolette gialle con 20 compresse effervescenti. Se è il nostro giorno fortunato, capitiamo nella farmacia che ci fa pagare 8,30 euro. Se invece la cattiva sorte ci ha preso di punta, è possibile che dal portafogli tireremo fuori ben 13,49 euro. Sono chiaramente due casi limite, ma la cabala si traduce in una bella differenza per le tasche, più di 5 euro, cioè il 60%. È il bello del mercato. Laura Filippucci. Buongiorno. Buongiorno a voi. Economista responsabile delle inchieste nel settore salute per Altro Consumo, la vostra prova sul campo più recente in questo settore, a caccia di farmacie con lo sconto, 9 città monitorate, 102 punti vendita visitati, per che risultati? Sì, noi siamo tornati sul campo a vedere come cambiano i prezzi dei farmaci perché, come ormai tutti ci saremo accorti, dal 1° gennaio di quest'anno, quando acquistiamo un farmaco, non è più indicato il prezzo sulla confezione. E quindi volevamo vedere che cosa era cambiato, perché oggi il farmacista può applicare il prezzo che vuole. Se fino a dicembre lui aveva un prezzo massimo e oltre il quale non poteva andare, oggi il farmacista può appunto fare il prezzo che decide lui. Per questo motivo siamo andati in 102 punti vendita e che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che mediamente nelle farmacie, rispetto a questo famoso prezzo massimo che era indicato, si risparmia mediamente un 4%. Nelle parafarmacie il risparmio sale all'11% e negli ipermercati si arriva al 21%. È però estremamente interessante notare che all'interno della stessa farmacia ci sono molte variabilità di prezzo tra un farmaco e l'altro. Come appunto si diceva prima, ad esempio lo stesso Supradin in una farmacia lo posso pagare 8 euro, nell'altra 12. Questo perché? Perché le farmacie hanno iniziato a comportarsi un po' come i supermercati o i normali punti vendita, ovvero fanno delle promozioni. Scelgono un campione di 20-30 farmaci che sono normalmente quelli più venduti, quelli anche che si prendono più liberamente al bisogno, tipo appunto questo farmaco di cui si parlava prima. Che non è poi esattamente un farmaco, è quasi un integratore. È un integratore, ma di fatto è classificato come farmaco, e quindi il consumatore va magari in farmacia, vede questa offerta e se ne approfitta, appunto, dice entra, compra e magari già che è lì ne approfitta per prendere altre cose, perché ricordiamo che appunto le farmacie stanno imparando a fare questo gioco del mercato e quindi fanno le promozioni per invitare i clienti a entrare nel loro punto vendita, e già che sono lì magari ne approfittano, comprano pannolini, comprano crema e altre cose. Meno 3,7% di riduzione nei prezzi delle farmacie, ma qual è il paniere di farmaci che avete analizzato? Perché allora, immagino sia stato lo stesso per tutti i punti vendita visitati. Infatti, noi abbiamo scelto i 60 farmaci, possiamo dire, leader del mercato, quelli che fanno il mercato. Quindi abbiamo i farmaci proprio che i più noti, infatti. Perché appunto sono quelli che fanno il mercato, sono quelli che vengono più acquistati e sono quelli quindi che indicano effettivamente come si muovono i prezzi. Quindi all'interno però di questo campione non c'è il campione dei generici, che però resta sempre un'opportunità di risparmio molto importante per il cittadino. Cioè i cittadini, chi ci ascolta, è dal 2002 che ha imparato possono esistere due farmaci che hanno la stessa efficacia ma che hanno prezzi diversi. Stesso principio attivo, ma prezzo diverso. Infatti. E quindi insomma qui è la famosa distinzione fra l'equivalente e il farmaco griffato, che abbiamo fatto anche nella nostra scheda. Tutti aspetti molto interessanti, avremo modo di commentarli nel corso di tutta la trasmissione. Intanto però do anche il benvenuto alla presidente nazionale di Federpharma, Anna Rosa Racca, forse ho detto Rocca prima. Buongiorno. Dottoressa Racca, buongiorno e benvenuta. Tra l'altro, reduce da questo incontro che si è svolto ieri al Ministero dello Sviluppo Economico, nel corso del quale avete siglato voi insieme alle altre associazioni di categoria un accordo con il garante dei prezzi Lirosi per implementare la trasparenza nei prezzi dei farmaci. Ci può raccontare in cosa consiste questo accordo e come si svilupperà fra i consumatori anche questa campagna di informazione? Sì, come è stato detto giustamente, i prezzi dei farmaci da banco, dei farmaci OTC non sono più fissi dal 1 gennaio di quest'anno, e questo è un accordo che ha riunito le parafarmacie, l'ANIFA, quindi le aziende produttori dei farmaci da banco, le farmacie pubbliche o private, proprio in uno straordinario accordo di trasparenza sui prezzi, per cui all'interno di tutti questi punti vendita ci saranno dei cartelli con indicati i prezzi di 20 confezioni di farmaci da banco. Ecco, presidente, volevo dire che però trasparenza vuol dire trasparenza, per esempio quello che è stato detto prima riguardo a un farmaco Supradin, certamente non si è tenuto conto del fatto che Supradin ha due confezioni, cioè la confezione da 10 compresse che costa sui 9 euro, quindi ecco perché c'era l'8,30, e quella da 30 compresse che costa 12 o 13, non ci saranno mai delle differenze di questo tipo. Gli amici di altro consumo mi assicurano che hanno fatto lo stesso paniere, però vabbè, a parte questo, prego, la lascio concludere, dottoressa Racca. Sì, questo vuol dire che comunque siamo tutti insieme in uno sforzo che proprio diciamo di trasparenza. La farmacia si è avvicinata, diciamo, da quando la legge ha permesso al cittadino, non soltanto proteggendo la salute del cittadino come ha sempre fatto, ma anche diciamo avvicinandosi dal punto di vista economico, quindi dal punto di vista del risparmio. Ora è logico che magari i farmaci che sono venduti per esempio nei supermercati sono di meno di quelli venduti in farmacia, quindi magari ci possono essere delle offerte più impattanti da altre parti, più forti, e magari meno nella farmacia che ha una range di farmaci molto più vasto, però questi cartelli diciamo aiuteranno molto i cittadini, che appunto potranno nel Supradin da 10 o da 30 comunque sarà ben specificato confrontare naturalmente il prezzo nei vari punti. Ecco, però presidente Racca, credo che i farmaci commercializzati in Italia siano un numero ben superiore rispetto alle 20 confezioni interessate a questa operazione trasparenza. Come mai un paniere così limitato? Ma no, si era pensato di fare un paniere di 50-60, ma voi capite che naturalmente nemmeno un cartello che sarebbe stato nemmeno letto, voglio dire. e quindi forse è giusto che a seconda, diciamo, il Ministero manderà degli elenchi, quindi che a seconda, anche se d'estate o d'inverno, voglio dire, ci siano i farmaci anche adatti a quella stagione. Ecco, insomma, poi magari spiegheremo anche un po' meglio come esattamente funzionerà questa campagna, nel senso, se io vado in farmacia, dove deve essere esposto questo cartello, quali informazioni devo trovare e soprattutto, insomma, sperando che ovviamente da comune cittadina che si occupa tutti i giorni di tutt'altro, speriamo appunto che sia anche qualcosa di comprensibile, ben confrontabile a seconda dei punti vendita ai quali mi rivolgo. Ovviamente non ho ancora salutato Pietro Marino, presidente dell'Associazione Nazionale Parafarmacie Italiane, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a te. Io la coinvolgo sentendo però subito una considerazione di un'ascoltatrice che ci chiama da Livorno, e Miria, la ringrazio. Miria, benvenuta a Salva Danaio. Sì, buongiorno. Io volevo sottolineare questo, che ho notato tra non una grossa differenza di prezzo tra le farmacie e i punti di parafarmacie. Mi sembra che loro sullo sconto si stiano livellando, perché quando vado in una parafarmacia trovo uno sconto tra il 5 e il 10%, poi se vado dal mio farmacista e gli dico guarda che lì mi fanno questo prezzo, loro me lo fanno pure, quindi mi sembra quasi che si siano messi d'accordo. Si sono messi d'accordo, però intanto funziona, voglio dire, no? Il meccanismo della concorrenza quantomeno si attiva. Dobbiamo, come sempre accade per tutto, Miria, per le polizze assicurative, per l'RC auto, per il conto corrente, sempre farci parte attiva in una trattativa di qualsiasi genere. Comunque ha fatto bene. In ogni caso lei nota che comunque gli sconti sono livellati, in sostanza. Gli sconti nelle parafarmacie ci sono, e richiedendoli alla farmacia, perché se non li richiedi non te li fanno. Beh, certo. Bisogna notare questo, però diventa un po' una trattativa, non è simpatico infatti andare in farmacia e chiedere quanto mi fa di questo prodotto, non siamo mica al mercato. Lo so, l'ho detto anche prima. Io Miria la ringrazio. Tra l'altro lo stesso atteggiamento si riscontra quando per esempio chiediamo alla farmacia il farmaco equivalente. In quella dove vado io per esempio me lo propongono sempre, devo dire la verità. In altre può non capitare, magari a volte ci si può anche dimenticare, perché vogliamo anche ovviamente fidare nella buona fede di farmacisti, parafarmacisti, però forse anche noi, sapendo che insomma le opportunità sul mercato ci sono, facciamoci anche un po' più attenti. Allora Marino, le parafarmacie intanto, sì. che cos'è una parafarmacia? Beh, che cos'è una parafarmacia? La parafarmacia come la conosciamo oggi nasce sostanzialmente con il decreto Bersani del 2006, è stato detto prima, che di fatto ha aperto la possibilità a farmacisti laureati, abilitati, di poter aprire un punto vendita in cui mettere a confronto e a disposizione dei cittadini la propria professionalità, vendendo i cosiddetti farmaci di automedicazione, farmaci SOP e OTC. Quindi mi sta dicendo che le quasi 2000 che sono sul territorio nazionale sono state aperte tutte dopo le misure di Bersani dal 2006 in avanti, in due anni? Beh, sicuramente la maggior parte sì, consideriamo che più della metà sono nuove aperture. Parliamo ad oggi di più di 2500 punti vendita, di questi l'80% sono esercizi di vicinato, quindi piccoli esercizi. Nella gran parte sono stati aperti, come dicevo, da ex farmacisti dipendenti che hanno intravisto nel primo decreto Bersani la possibilità di esercitare la propria professione fuori dall'ambito del canale istituzionale che è la farmacia. Quindi insomma il Supradin da voi quanto lo paghiamo? Il Supradin da noi lo paghiamo meno, l'ha detto prima la dottoressa Filippucci di Altro Consumo, un sconto medio dell'11% che si colloca grosso modo a metà fra gli sconti praticati dalle farmacie e quelli della grande distribuzione, con un assortimento che è assolutamente superiore a quello della grande distribuzione, che è limitato a 200-300 referenze e che si avvicina molto invece all'assortimento che invece viene proposto dalle farmacie. Quindi ecco, la differenza tra la vostra attività e quella che viene esercitata nei corner saluti degli ipermercati è una differenza che intanto attiene al numero delle referenze che vengono presentate, quindi al numero dei prodotti che potete vendere. Ovviamente la parafarmacia ha la titolarità di un farmacista. La farmacia, la titolarità di un farmacista. La parafarmacia. La parafarmacia, essendo un esercizio commerciale che rientra nel nel primo decreto Bersani, cioè nella riforma del commercio, sono esercizi commerciali, per cui la titolarità, la proprietà in questo caso può essere anche di un non farmacista. Però diciamo che la gestione del reparto della zona adibita alla vendita è sostanzialmente gestita da un farmacista. Nella maggior parte dei casi sono stessi farmacisti, sono la proprietà delle parafarmacie e corrisponde generalmente a un farmacista. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi affrontiamo il tema del farmaco per cercare di capire cosa è cambiato in questi due anni, grazie non solo alle liberalizzazioni di Bersani, perché in realtà la strada della liberalizzazione dei punti vendita si era tentata anche prima. Il tema è capire come sono aumentati e di quanto i punti vendita per la distribuzione di farmaci, in particolar modo stiamo parlando ovviamente di quelli senza obbligo di prescrizione, dei cosiddetti OTC, cioè i farmaci da banco e da automedicazione. Quindi quanto sono aumentati i punti vendita e che benefici sono arrivati tra i consumatori. Effetti ce ne sono stati e come, probabilmente ancora un bel po' di strada bisogna fare, fatto sta che sono nati i corner salute negli ipermercati e nei supermercati, sono proliferate le parafarmacie e anche le strutture farmaceutiche tradizionali, le farmacie tradizionali sono attrezzate per venire incontro sempre di più ai consumatori, anche se poi c'è sempre una grande battaglia tra una parte e l'altra, soprattutto insomma le associazioni dei consumatori che si accontentano poco e ovviamente vedono sempre dei traguardi ulteriormente migliorativi rispetto a tutte le questioni che trattiamo, per la verità. Quello di stamattina è un tema molto bello che vivacizziamo adesso con le domande di Riccardo da Firenze e Teresa da Parma. Sentiamo subito Riccardo, benvenuto. Buongiorno, mi chiamo Riccardo e sono un dottore in chimica, tecnologie farmaceutiche. Ah, bene. Io volevo fare una considerazione e poi una domanda, visto che si è parlato di farmaci generici. Riccardo, però lei abita a Firenze, ma non mi pare proprio fiorentino. No, la mia inflessione linguistica è chiarissima. Proprio locale, non sono del posto. Allora, la mia considerazione è molto, molto sintetico. Allora, quando un farmaco scade di brevetto, si chiama, va incontro a un processo che si chiama genericazione, cioè il farmaco che prima aveva un nome commerciale si è trasformato in un farmaco genericato. Le altre aziende lo possono produrre e si chiama farmaco generico. Allora, io sono a conoscenza di una normativa che è solamente in Italia, perché in Europa c'è una differenza, sulla bioequivalenza. Vi spiego rapidamente che cos'è la bioequivalenza. È la quota di farmaco di principio attivo che si rende disponibile nell'organismo per esplicare il suo effetto. Ok. Allora, in Italia c'è un più o meno 20% per il generico, mentre per il genericato è un più o meno 2%. Questo era per ribadire un concetto molto semplice, che c'è una differenza tra generico e genericato, e che è proprio sull'efficacia. La normativa europea riguarda sempre il 2, più o meno il 2% sul farmaco generico e genericato. E la mia domanda è: perché esiste una differenza? E se esiste una differenza tra farmaco generico e farmaco che ha perso il brevetto? Okay. Riccardo, guardi, qua mi trova sicuramente completamente impreparata, perché qua abbiamo imboccato una strada anche scientifica. Forse può venirci incontro la presidente nazionale di Federpharma, dottoressa Racca. Ha sentito la considerazione di Riccardo e poi mi chiedo insomma se la questione che lui ha sollevato può in qualche modo anche trovare attinenza con gli interessi dei consumatori quando vanno a comprare il farmaco. Allora, io mi scuso proprio del rumore, ma sono proprio in un convegno di assogenerici, quindi noi proprio oggi qui parliamo dei generici. I generici sono un risparmio per lo Stato, io vi ricordo che sono stati risparmiati 720 milioni di euro l'anno scorso per i farmaci generici. Ovviamente diciamo la farmacia ha contribuito molto in questo, quindi non è che la farmacia non consigli il farmaco equivalente, perché noi siamo anzi obbligati dallo Stato a dire c'è un farmaco equivalente, se il cittadino vuole il farmaco madre paga la differenza che c'è tra il farmaco equivalente e il prezzo. Farmaci equivalenti sono dei farmaci che hanno appunto la stessa composizione e la stessa bioequivalenza. La bioequivalenza è l'AIFA, che è l'Agenzia Italiana del Farmaco, che quindi che naturalmente controlla e garantisce la bioequivalenza di un farmaco, quindi il fatto che quel farmaco abbia nell'organismo lo stesso effetto, diciamo, del farmaco madre. Ovviamente in questi giorni ci sono tutti i tavoli aperti che stanno parlando di varie cose. Io volevo semplicemente dire che senz'altro la ricerca è la vita e il generico però è anche la vita della ricerca, cioè dal generico si devono prendere delle sostenibilità economiche per sostenere anche la ricerca. Io penso che la farmacia abbia fatto un bel lavoro, perché anche in questo senso è stata vicino al cittadino e al consumatore proprio nell'aiutarlo a risparmiare. Insomma, abbiamo aperto anche questa parentesi quasi esclusivamente scientifica, per la quale vi ringrazio, nella quale evidentemente non sono in grado di controbattere. Tornerei allora ancora ai punti vendita e ai canali di distribuzione per capire come li utilizziamo utilmente per avere un beneficio nelle nostre tasche quando ci approcciamo all'acquisto del farmaco. Teresa da Parma, benvenuta. Grazie, buongiorno. E io mi riferisco alla prima telefonata che avete ricevuto, e dicendo, considerando che se non ci fossero state le parafarmacie, lo sconto anche minimo nelle farmacie, la signora che ha parlato prima non lo avrebbe ottenuto comunque, per cui la ritengo una cosa molto positiva per il consumatore. Lei, Teresa, per esempio, quando va a comprare l'aspirina chiede al suo farmacista se ha l'equivalente generico? Io sempre prendo, sono sempre propensa a prendere il generico, perché lo trovo altrettanto valido. Ma certo, insomma, il principio attivo lo dicevamo lo stesso, però effettivamente forse c'è un aspetto interessante, magari ancora c'è una scarsa fiducia intorno all'equivalente dei farmaci di marca. Marino, l'Associazione Nazionale Parafarmacie Italiane, lei riscontra ancora questo tipo di resistenza da parte dei consumatori italiani? Beh sì, in Italia siamo arrivati un po' in ritardo su questo settore. In Europa il farmaco generico, più propriamente equivalente, è molto più diffuso. Vuoi anche perché una normativa italiana ha fatto sì che la scadenza dei brevetti fosse protratta più a lungo rispetto a quelli che comunemente sono già presenti negli altri paesi europei. Però diciamo che il trend in questo momento è molto positivo. Quest'anno credo che, come ha detto bene la dottoressa Racca, risparmi per la collettività sono stati enormi, quindi c'è stata un'impennata del consumo dei generici, anche perché molti brevetti proprio in questi ultimi due anni sono scaduti e quindi si è data la possibilità. Ecco. C'è ancora ovviamente una resistenza dovuta anche al fatto, credo anche a una cattiva informazione, i soldi che verranno risparmiati è opportuno che vengano utilizzati per la ricerca. E noi come parafarmacie facciamo di tutto per quanto c'è possibile, perché tra i farmaci da banco, Sopio TC, non sono tantissimi i farmaci equivalenti, però cerchiamo di proporli nel limite delle nostre competenze. Lo scorso maggio, proprio a proposito dei farmaci equivalenti, abbiamo trovato anche nei supermercati Coop un'altra novità, la aspirina prodotta in casa Coop. E anche questa, insomma, un'altra rivoluzione molto importante. Chissà l'industria farmaceutica come si pone rispetto a questa introduzione. Laura Filippucci di Altro Consumo. Allora, in quel caso parliamo di un farmaco per cui era scaduto un brevetto, per cui la Coop ha potuto inserirsi in questo mercato? Allora, questo è un farmaco un po' particolare, nel senso che non corrisponde esattamente all'aspirina tradizionale, bensì corrisponde di più all'aspirina effervescente. Perché infatti C, infatti ci sono i due principi attivi. Infatti noi su questo farmaco avevamo espresso delle perplessità, perché appunto, riallacciandomi a quanto si diceva prima, in questa categoria di farmaci di cui stiamo parlando oggi, di generici non ce ne sono moltissimi, che tradotto vuol dire questo risparmio di cui si parlava è in realtà il risparmio dello Stato, che poi indirettamente ricade nelle tasche del cittadino, però non è che noi cittadini lo sentiamo direttamente. Molto spesso invece, quando io vado in farmacia e chiedo un farmaco da banco, magari vengo invogliato anche dalla pubblicità a prendere dei farmaci che hanno più principi attivi, cioè sono delle associazioni. Queste associazioni non sempre sono più efficaci rispetto al farmaco che ha un unico principio attivo, ma molto spesso costano di più. Se io ad esempio ho la febbre, ho bisogno quindi di un antifebbrile che mi faccia abbassare la febbre, a volte magari mi propongono questo antifebbrile che accanto ha del miele e quindi lo pago di più, ma se io poi ho bisogno del miele mi prendo un cucchiaino di miele e forse alla fine è anche più gradevole. Abbiamo un abbellimento della confezione, anche un quindi, po' del contenuto che poi paghiamo. Per consigliare chi ci ascolta, preferiamo sempre i farmaci con un unico principio attivo, perché costano di meno e perché se io ho mal di testa prendo qualcosa che mi faccia abbassare. Tornando al farmaco Coop, farmaco COP è ovvio che disorienta un po' il mercato, perché costa 2 euro contro, esatto, un 5 euro del farmaco griffato. Dell'aspirina tradizionale. Noi ovviamente siamo assolutamente favorevoli a questo tipo di farmaci, a patto che, lo diciamo sempre e lo ribadiamo, sia sempre un farmacista a dispensare un farmaco. Ci piace ricordare che i farmaci non si vendono ma si dispensano. E quindi vanno assunti solamente con molta cautela e dietro il consiglio o eventualmente anche appunto dei suggerimenti di un esperto qual è il farmacista. Sentirei un altro ascoltatore, poi vorrei sentire anche la presidente di Federpharma sulla aspirina della COP, se insomma questa iniziativa dovesse aprire la strada ad altre iniziative, e probabilmente succederà in futuro di questo tipo, come si pone anche l'industria, insomma la categoria dei farmacisti rispetto a questa tematica. Però sentirei anche Mauro da Milano, camionista. Mauro, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ci dica tutto. Sarò brevissimo. Io trovo la necessità auspico di trovare la pastiglietta per il mal di testa piuttosto che il mal di gola o il cerotto negli autogrill, perché mi capita di fare 5-6 ore di autostrada, non ho la possibilità di uscire in un paesino perché c'è un camion di 16 metri a cercare la farmacia, e invece li ho trovati in Francia, in Germania, poche a dire la verità, ma ci sono, in Italia no. Quindi auspico che succeda questa cosa. Che la liberalizzazione ancora si implementi ulteriormente, che addirittura lei possa trovare dei corner saluti oppure piccoli angoli parafarmaceutici, dottor Marino, non lo so se possa essere il caso, però non è proprio un'idea peregrina. Certo, Mauro potrebbe partire se è soggetto al mal di testa, magari, non lo so, con il suo carico di medicinali di cui ha bisogno, però insomma di fronte a un'emergenza in autostrada ci possiamo trovare tutti, anche io faccio dei gran viaggi. Certo, ma io so che ci sono delle iniziative già di corner che si stanno aprendo sulle autostrade. Non è vero che in Francia si trovino questi farmaci, perché i farmaci da banco ad oggi sono ancora nel canale farmacia esclusivo. In Italia abbiamo questa possibilità che estende ai corner e alle parafarmacie, quindi assolutamente l'offerta è aumentata in maniera considerevole. Se consideriamo che 2500 punti vendita abbiamo a 2 anni dal primo decreto Bersani, quindi questo lo dobbiamo valutare in senso assolutamente favorevole. Noi non siamo favorevoli, come anche Altro Consumo mi sembra abbia espresso prima, alla banalizzazione del farmaco che deve essere dispensato e che quindi preveda sempre la presenza del farmacista, anche perché è una tutela del cittadino, del consumatore, e soprattutto in un'epoca in cui la contraffazione dei farmaci è all'ordine del giorno, liberalizzare, trovare nelle drogherie indiane piuttosto che nei tabaccai questi farmaci, insomma, pone un problema di sicurezza. E insomma, c'è, come per tutte le cose, un percorso da fare con gradualità, visto che parliamo di un ambito molto delicato, però a noi piace dispensare anche consigli e ci piacerebbe anche che i farmacisti lo facessero, che dispensino anche consigli per il risparmio, perché per molte famiglie a volte l'acquisto del farmaco significa una fetta di budget mensile non indifferente, per cui possiamo anche trovare qualche modo per aiutare i consumatori italiani anche in questo settore. Eccoci ritrovati, ci mancano 5-6 minuti di tempo per concludere la nostra conversazione di questa mattina sul farmaco, caccia al risparmio nell'ambito del farmaco, oggi sicuramente più possibile rispetto al passato grazie alla moltiplicazione dei canali di vendita di farmaci. C'era un ascoltatore, c'era un messaggio che mi ha divertito molto, Paolo, che scrive: peccato che non esista un parabenzinaio, magari costerebbe meno anche la benzina. Esistono delle figure equivalenti, Paolo, perché ci sono i distributori indipendenti, quelli che non sono griffati esattamente come i farmaci, solo che magari sono situati in luoghi sperduti dei nostri paesi, anche lì bisogna andarli a cercare, ma anche quelli sono luoghi di risparmio possibili nel nostro paese. Anna Rosa Racca, presidente nazionale di Federpharma, la volevo coinvolgere sulle considerazioni che abbiamo fatto in precedenza e magari un commento anche sull'esigenza del nostro camionista che dice magari punti farmaceutici potessero esserci negli autogrill per casi estremi di emergenza, e poi insomma l'aspirina prodotta dalla COP, voi come la vedete? Dunque, l'aspirina prodotta dalla Coop, qualora sia naturalmente anche questa efficace, la vediamo bene, per noi interessa la salute del cittadino. La pubblicità è stata ritirata, come ben sapete, perché è una pubblicità ingannevole. Quando si pubblicizza un farmaco bisogna naturalmente darne la composizione, gli effetti collaterali, così come secondo la normativa. Per quanto riguarda il fatto che i cittadini possono trovare anche su quando vanno in automobile, come diceva giustamente l'ascoltatore, in autogrill, un farmaco, c'è in ballo una discussione proprio. Lo stesso ministro, diciamo, se ne è fatto parte, diciamo, quindi discuteremo quindi su se è una buona cosa che magari in confezioni ridotte per certi particolari farmaci questi possono essere venduti per esempio nell'autogrill. Ma insomma, per concludere, dottoressa Racca, visto che ci rimangono pochi minuti, avrei qualche altro ascoltatore e poi concluderei anche con gli altri nostri due ospiti. Il senso della nostra conversazione conclusivo è, insomma, l'ambito farmaceutico è un ambito nel quale è davvero così tanto difficile praticare una vera concorrenza? Si potrebbe implementarla ulteriormente? Qual è lo sforzo che anche... La concorrenza c'è, noi abbiamo iniziato anche noi a fare la concorrenza, diciamo, ma quando la legge ci ha potuto farlo, perché noi prima avevamo i prezzi fissi stabiliti per legge, è stato Bersani a liberalizzare, prima Storace a farne gli sconti e Bersani a liberalizzarlo. Quindi voglio dire, la farmacia si è sempre dimostrata con molta sincerità, con molta trasparenza, con molta chiarezza a disposizione del cittadino e ha assicurato delle condizioni di vendita nettamente a favore del cittadino stesso. E appunto, come dicevamo all'inizio, l'accordo di ieri e questi famosi cartelli che esisteranno nei punti vendita sono una testimonianza di questo e un bel incontro fra parafarmacie, consumatori, industria e farmacia. Grazie, io ringrazio la presidente nazionale di Federfarma, Anna Rosa Racca, la lascio andare al suo convegno perché l'abbiamo disturbata oltre misura. 4 minuti di tempo prima di concludere. Marina da Milano, buongiorno. Buongiorno, sono velocissima. Io ho una domanda. Qualche giorno fa ho comprato una pomata antibiotica perché mia figlia aveva un'infezione dove ci soffia sempre il naso e quindi per 4-5 giorni ho dovuto spalmarle questa pomata. Ho pagato 14 euro, ho comprato praticamente un tubetto che sembra un tubetto del dentifricio, 15 grammi, ne userò sì e no il 10%, scade nel giugno 2009 e mi ritrovo con questa pomata che spero e penso non userò mai più e sarò destinata a buttare via. Certo, quindi... a lei serviva una confezione da utilizzare per 5 giorni in modo tale da non buttare. Esattamente, cioè se no il 10%, mi domando perché non possa esistere, come credo ci siano invece in altri paesi, delle medicine monodose. Compro quello che mi serve. Bellissima che la farmacia, idea. La casa di medicine. Allora, apriamo un altro fronte di lotta per le associazioni dei consumatori, ma non credo, Laura Filippucci, che non ci abbiate pensato. Sì, probabilmente la pomata della signora non appartiene a questa categoria di farmaci. In ogni caso anche noi stiamo lottando per avere delle confezioni di farmaci che corrispondano al piano terapeutico che una persona deve seguire, soprattutto per l'antibiotico che ha delle scadenze ben precise. Però mi aggancio a quanto diceva la signora in ascolto per dare un ulteriore consiglio, cioè prima di correre in farmacia apriamo il nostro armadietto dei medicinali, perché a volte quello di cui abbiamo bisogno è già lì, magari non l'abbiamo visto, magari appunto usciamo dall'ufficio di corsa e andiamo lì e ci ritroviamo poi in casa con degli inutili doppioni, i farmaci scadono e quindi è importante comprarli veramente solo quando ne abbiamo bisogno. Domenico da Vicenza, così giro la sua considerazione a Pietro Marino dell'Associazione Parafarmacie, buongiorno. Rapidissimo perché siamo in chiusura, grazie. Buongiorno, mi ricollego al problema della cosiddetta banalizzazione del farmaco, del farmacista nel corner, no? Allora c'è una proposta di legge di Gasparri, uno dei tanti che ha fatto questa proposta, di levare il farmacista dai corner. Quindi praticamente il corner il supermercato potrebbe vendere senza necessità di una con un semplice commesso, insomma, come esatto. Se fosse un negozio. Sì, ma questa credo che sia una cosa che allora, io sono sarà dura passare. Io sono farmacista e è quasi scandalosa una cosa del genere, perché andremmo a divenire come in altri paesi delle figure, diciamo così, che si collegano e si ricollegano solo alla farmacia come istituzione, diciamo così, come non vorrei dire lobby, ma quasi, ecco, perché... No, siamo... Domenico, sì, la ringrazio. Credo che non avrà vita facile esattamente questa proposta, perché per molti aspetti, insomma, condividiamo assolutamente le sue perplessità. Chiudiamo però la nostra conversazione dedicata, come dire, ai risparmi nell'acquisto del farmaco. Lascio allora la conclusione a Pietro Marino, presidente dell'AMPI, dell'Associazione Nazionale Parafarmacie Italiane, magari riprendendo proprio il concetto che stavamo affrontando con la Anna Rosa Racca, presidente di Federpharma, il tema della concorrenza in questo settore. Tanti sforzi sono stati fatti, cos'altro si potrebbe fare? Tanti sforzi sono stati fatti, molti si possono fare ancora, soprattutto sfruttando l'esperienza positiva delle parafarmacie, che non è stato detto, comunque sono, essendo esercizi di prossimità alle farmacie, stimolano anche le farmacie a fare sconti. Noi abbiamo questa prerogativa di essere dei farmacisti laureati e abilitati, e crediamo che questa esperienza positiva di Bersani possa essere continuata, magari ampliando il numero di farmaci vendibili nelle parafarmacie, magari anche con obbligo di prescrizione medica. Questo sicuramente porterebbe ulteriori vantaggi ai consumatori, come abbiamo dimostrato in questi due anni di attività. Lascio anche una possibilità di conclusione a Laura Filippucci di Altro Consumo. Un po' imbarazzata, ma credo che dalle pieghe della vostra indagine troviamo qualche altra cosa. Chiudiamo anche il nostro salvadanaio. Non riesco a far concludere Laura Filippucci, ma torneremo senz'altro più avanti su questi argomenti così interessanti, appassionanti, oltre che utili per i nostri ascoltatori. Grazie a tutti. Salvadanaio torna domani. Da Deborah Rosciani, buona giornata.